Mare chiară, mare chiară, tu, solo tu, uffa di cera sto core, ma capocchio, e la musica sto marga, nessuno vrebbe sormi, coppa garetta bastanta. Un concerto senza fine, casi tu se vanno a pena, non so vanno che scorda. Quando in cielo sponda luna, chi è meglio me? Tenga amore in tasti braccia, in tuo cuore una canzone, tenga luna e tenga te. Mare chiara, mare chiara, tu solo tu, buffa di cera sto core, ma capo c'io, e la musica sto mare che nessuno professore in coppa carta può stampare. Nu concerto senza fine, casi tui se vanno bene, non so vanno più scordare. Quando in cielo sponda luna, chi è meglio me? Tenga amore in tasti bracci, in tuo cuore una canzone, tenga luna e tenga te. Stampa, un concerto senza fine, casi tui se vanno bene, non so vanno più scurta. Quando in cielo sponda luna, chi è meglio me? Tenga amore in tasti braccia, in tuo cuore la canzone, tenga luna e tenga te. Chi è meglio?